Fratel Coniglio e il pupazzo di Catrame. Fratel Coniglio, con i suoi dispetti, riusciva spesso a irritare gli altri animali. Per esempio, quando rubava loro il pranzo e poi li prendeva in giro. State a sentire che cosa capitò quando si mangiò il pranzo di Fratello Volpe. Fratello Volpe non solo giurò che si sarebbe vendicato di Fratel Coniglio, ma giurò addirittura che lo avrebbe divorato. Prese un sacco, lo riempì di paglia e fabbricò un pupazzo. Al posto della testa mise una zucca e una rapa e due rapanelli al posto degli occhi e del naso. Lo cosparse tutto di catrame e lo vestì con una giacca, un cappello di paglia e dei bei guanti gialli. Poi lo mise sul ciglio della strada. Era bellissimo. Fratello Volpe si nascose dietro il muro e aspettò che Fratel Coniglio arrivasse. Quando Coniglio vide il pupazzo di catrame, si fermò di botto. «Salve, amico!» esclamò. «Quel buon vento ti porta!» Il pupazzo non disse niente. «Buongiorno!» ho detto. «Come ti senti in una giornata così bella?» chiese di nuovo Fratel Coniglio, che era di buon umore, ma il pupazzo non rispose. «Forse sei sordo, è così?» fece il coniglio e, avvicinandosi al pupazzo di catrame, gli strillò nell'orecchio, ma quello non rispose. «Senti un po', sei proprio maleducato, sai!» cominciò a irritarsi il coniglio. «Dimmi buongiorno o ti darò una tirata d'orecchie!» Ma il pupazzo di catrame non rispose. Fratel Coniglio gli diede una tiratina d'orecchie e la sua zampa rimase appiccicata. «Lasciami!» gridò Coniglio al pupazzo dandogli uno spintone con l'altra zampa, ma anche l'altra zampa rimase appiccicata come il cucchiaio al miele. «Vada, sai!» minacciò il coniglio. «Assaggerai i miei calci se non mi lasci!» Ma il pupazzo di catrame non disse nulla. Allora Coniglio gli diede un calcio, prima con un piede e poi con l'altro, e le sue zampe posteriori rimasero appiccicate al catrame come una mosca sulla carta moschicida. «Ti ho avvisato! Ti darò una testata!» Ma il pupazzo non disse niente. Quando il coniglio gli assestò una tremenda zuccata, le sue orecchie rimasero appiccicate al catrame come gomma da masticare. «Ti ho preso!» gridò Fratello Volpe saltando fuori dal suo nascondiglio con un sorriso trionfante. Prese Fratel Coniglio per la collottola e con uno strattone lo staccò dal catrame, gettandolo poi in un sacco. «Ai ai ai ai! Non avrai intenzione di gettarmi fra i rovi, gentile volpe!» «Ho in mente ben peggio per te!» ridacchiò la volpe. «Ti arrostirò!» «Oh, meno male, purché tu non abbia intenzione di gettarmi tra i rovi!» «Cosa vuoi dire con meno male?» fece la volpe indignata. «Penso proprio di infilarti su uno spiedo!» «Bene, bene!» riprese il coniglio. «Basta che tu non mi getti tra i rovi!» «Tu stai guastando il mio divertimento!» si indispettì la volpe. «Perché non mi preghi e non chiedi pietà?» «Ma è quello che sto facendo! Ti prego, ti supplico! Non gettarmi fra i rovi!» «Ma!» fece la volpe seccatissima. «Sono qui per vendicarmi di te, Fratel Coniglio! E ti assicuro che lo farò!» Acchiappò il coniglio e lo scaraventò proprio in mezzo ai cespugli di rovi. Erano così folti e alti che scomparve completamente alla vista. «Ah! Oh! Oh! Ui, ui, ui!» si sentì la sua voce gridare. E poi... Fratel Coniglio si drizzò sulle zampe masticando un cardo. «Ma guarda un po', quella volpe non sapeva che io sono nato e cresciuto tra i rovi. Queste spine mi grattano davvero bene la pelliccia. Come sono saporiti questi cardi. Ehi, volpe, faresti meglio a togliere quel pupazzo di catrame dalla strada prima che ci rimanga invischiato un altro povero coniglietto!» La volpe digrignò i denti e saltò avanti e indietro stringendo minacciosamente i pugni pelosi. La prossima volta ti acchiapperò, imbroglione, furbastro, malvagio conigliaccio! Era così irata che se la prese col pupazzo di catrame e gli assestò un pugno sul naso con tutte le sue forze. E questo, come potete immaginare, fu un grosso errore. L'ultima volta che ho visto fratello Volpe era ancora appiccicato al pupazzo e imprecava, gridava e insultava fratel Coniglio con epiteti che non oso ripetere.